fatto di diventare un artista ti in qualche maniera ti impedisce di diventare uomo in maniera normale. Quindi credo che a un certo punto della tua vita tu devi recuperare il tempo che hai perduto per fare l'artista per cercare di diventare un uomo. Fondamentalmente credo che questo sia il concetto base di quello che è la mia vita. Io sono stato ucciso, poi sepolto, la mia testa è bollata dal corpo. L'uomo muore ma senza dignità, l'uomo muore pure nell'aldilà. Io sogno numeri ma non li gioco, sogno una lapide con la mia foto. Sogno l'orgoglio di chi scarica il mercato, ma il mio destino ha già la faccia da drogato. E qua chi muore a 18 anni, chi muore a 100, vive di bronzo ma sogna l'argento. Loro se lo tengono loro e consumano litri di latte di toro. Salute, bevete, questo è sangue mio, è bianco, è pieno di me stesso, e puoi dirlo al tuo Dio che io stasera non ci torno a casa presto.